Mix 24 di Giovanni Minoli. Il capo del Consiglio Nazionale per il Commercio, Peter Navarro, ha accusato la Germania di approfittare dell'euro per sfruttare gli Stati Uniti e partner europei. Trump si era scagliato contro la Germania. Trump accusa la Germania di strategie egemoniche. Il neopresidente inneggia la Brexit, ma attacca direttamente anche la Germania. L'accusa infatti di tenere artificialmente basso il valore dell'euro per dominare i propri partner commerciali. Immediata è arrivata la replica di Berlino. La Germania, ha risposto la Merkel, è un paese che ha sempre sostenuto la politica indipendente della Banca Centrale Europea. Professor Paolo Savona, buongiorno, economista, vicepresidente dell'Aspen. Ecco, il capo del Trade Council, Peter Navarro, abbiamo sentito, accusa la Germania di aver sottovalutato l'euro e dice che la moneta unica in realtà è il marco tedesco. È così? Sì, certo. Questo è un qualcosa di ben noto agli analisti e agli economisti. Quindi è un'accusa che ha fondamento. No, però c'è da precisare che siccome il prezzo lo fa il mercato e non la Banca Centrale Europea, che queste competenze non ce l'ha, è più probabile che l'attuale situazione dipenda dal dollaro di quanto non dipende dalla Banca Centrale Europea. Quindi sia Trump che la Merkel con la risposta praticamente bluffano tutti e due. Monetaria. Cioè bluffano tutti e due in qualche modo, un pochino. Sì, certo. Esiste un problema, esiste il funzionamento del sistema monetario internazionale, certo, che è dominato dal dollaro, che ha ancora una larga maggioranza sia nel commercio mondiale che negli affari di finanza, che sono più importanti. Quindi se, come sta accadendo in questi ultimi tempi, ancora prima dell'arrivo di Trump, vi è una certa eccitazione nel sistema americano, perché la politica monetaria e quella fiscale avevano consentito agli Stati Uniti di uscire dalla crisi, cosa che non è avvenuta in Europa, anche questo per ragioni che il suo lavoro mette in evidenza costantemente, la situazione è questa. Quindi non è tanto accuso la Germania di manipolare il cambio, quanto dovrebbe ovviamente accadere da una parte o dall'altro, a dire: senti, sediamoci e parliamone. Ecco. Parliamone. Senta, in un'epoca però di recessione, di crisi, di perdita dei posti di lavoro, la Germania ha il tasso di disoccupazione sotto il 5%, il più basso della sua storia. Al netto delle nostre inefficienze, che sono tante, il nostro tasso di disoccupazione è al 12%. Ecco, lì c'è un problema grave che può esplodere in modo drammatico. Come si può affrontare? Allora, l'attacco corretto, se vogliono muovere un attacco, è il fatto che, contrariamente a direi le tradizioni delle relazioni internazionali concernenti la bilancia dei pagamenti, la Germania mantiene un surplus che attualmente in valore assoluto e in percentuale al PIL è nettamente superiore a quello della Cina. Esatto, infatti. Quindi il vero attacco è che loro hanno un risparmio in eccesso che non ha mai avuto nella storia recente dell'economia mondiale una dimensione così grande. Ed è, direi, l'essenza che divide profondamente la politica economica all'interno dell'Europa, ancora prima che nei rapporti con gli Stati Uniti. E quindi se un suggerimento possiamo permetterci di dare a persone che non hanno gran voglia di stare a sentire, dovrebbe essere quello: spendete di più, perché se la Germania spendesse i suoi 300, sto facendo un numero tondo, 300 miliardi di dollari, che è una cifra enorme, enorme, certo, sì, che è il 20% del PIL italiano, trascinerebbe sia lo sviluppo degli Stati Uniti e sia soprattutto, quello che interessa di più, lo sviluppo intereuropeo, creando condizioni, chiamiamolo, di maggiore stabilità, certo, rispetto a quelle in cui ma quindi ci Cina, troviamo. Quindi Cina e Germania saranno gli obiettivi della nuova politica sul commercio di Trump, è ovvio. Che non dovrebbe essere sul cambio. Perché poi il cambio oggi è generato dall'eccesso di formazione monetaria e finanziaria nel mondo, che si sposta per grandi emozioni, quindi non ha più un significato strettamente economico. Cioè non ha rapporti con l'economia reale. Esatto, è un problema di speculazione internazionale da cui si deve uscire. Quindi i grandi economisti, quelli che hanno il premio Nobel, dovrebbero concentrarsi su questo specifico tema. Per quanto riguarda l'Europa, ricordiamoci, lei in passato ne ha parlato, che ci fu la memoria scritta da 7 premi Nobel, esatto, i quali dicevano appunto: signori, spendete di più, fate un po' più di politica fiscale, non potete fare solo politica monetaria che alimenta ancora questi flussi finanziari che distorcono i legami con l'economia reale. Ecco, l'Italia, che è un paese di esportatori, prima dell'euro faceva le svalutazioni competitive, naturalmente non si possono più fare, ma non stiamo andando avanti. Come si inverte questo processo? Qua io la definisco la lotta fra le due debolezze, sì, nel senso che attualmente l'impostazione, chiamiamolo, della politica economica americana ha dei difetti e vorrebbe appunto riflettersi anche in un cambio del dollaro meno diverso, forte, certo, più debole. E dall'altro l'Europa non può assecondare, direi, la politica della Germania, perché paesi come l'Italia, naturalmente, che ne hanno bisogno non solo, come è stato detto in passato, del rapporto 1-1 col dollaro, e ci siamo molto vicini, ma addirittura tornare a ciò che accadde immediatamente dopo la creazione, dopo il rapporto è sceso al 0,86, esatto, che significa 14% di svalutazione, che naturalmente ecciterebbe moltissimo anche le esportazioni italiane. Ecco, ma come dicevo prima, non è la strada che non è la strada, ecco, quella delle battaglie. Professor Savona, ma in Germania molti pensano che l'Italia dovrebbe lasciare l'euro. Romano Prodi invece ha il sospetto che sia la Germania a voler lasciare l'euro. Come stanno le cose? Anch'io ho sostenuto questo, perché se si sfila la Germania, certamente ci sarebbero delle conseguenze anche per il resto del mondo. Io penso che, però, alla fine della storia, che chiunque si sfili inizia lo sgretolamento del sistema. E infatti anche Draghi mi pare che cominci a considerare non più irriversibile la moneta unica, ha espresso timori. Ecco, cosa sta succedendo a Francoforte? Certo che, siccome la Germania sta ormai toccando l'obiettivo della crescita inflazionistica del 2%, avevano annunciato 1,9 l'anno corretta, 1,8, ma ormai ci siamo, le pressioni su Francoforte per cambiare politica monetaria diventano sempre più forti e Draghi entra in difficoltà. Perché, in grande difficoltà, certo. Perché se aumenta i tassi per cercare di scoraggiare che l'inflazione vada oltre il 2, praticamente soddisfa la Germania e uccide gli altri, certo, ancora di più gli altri. Certo. Se invece mantiene questa politica, accontenta paesi come l'Italia o i paesi deboli e scontenta la Germania. Io credo che lui oggi si trovi in una situazione estremamente molto delicata, complicata, per quello che ogni giorno strilla: fate politica fiscale, certo, alleggerite, direi, la mia politica. Cioè lui non è più in grado di far niente. Da solo non ce la fa più. Ecco, certo. Professor Savona, un'ultima cosa. Cosa ne pensa della lettera di risposta del governo italiano alla Commissione UE sui conti pubblici, questo 02-01? Guardi, io sto criticando sia l'Italia che l'Europa, la Commissione, certo, perché praticamente quando presentarono il bilancio a settembre, sì, le obiezioni della Commissione furono: questo bilancio non rientra negli accordi, sì, però c'era di mezzo il referendum, certo, e quindi hanno incominciato ad avere i tecnici di questo problema, sì, una attitudine politica: lasciamo, sì, che il governo Renzi, cioè aspettiamo dopo il referendum, adesso poi, il patatrac, certo punto, esatto, certo, cosa non è andato, quindi non è accaduto, e allora la Commissione ha ripreso l'argomento, quindi l'Italia lo sapeva, si ricomincia, e l'errore che è stato commesso di aver approvato dopo il referendum il bilancio che era un bilancio elettorale, esatto, e le critiche quindi è quello vanno il punto, sia infatti, esatto. Io credo, non lo so come è stata una richiesta del Presidente della Repubblica, esatto, quella, esatto, ricordo. Questo è esattamente la mia critica, una piccola cosa rispetto a problemi più ampi, certo. Però la realtà è che alla fine della storia io penso che la situazione sia infilata in un tale vicolo cieco che nell'Italia, nella Commissione possono uscire, quindi qualcosa accadrà. Quindi, mio timore è che ci sarà come al solito un aumento della pressione fiscale. Naturale. Grazie professor Savona. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS, insomma, mi sembra un'analisi non incoraggiante quella di Savona, Mario. Sì, non è è molto, come dire, realista come quando Savona affronta questi argomenti. C'è solo diciamo una cosa che secondo me accelera la crisi, che è il solo, è l'acceleratore vero della crisi, che è Trump. Cioè, lo scenario è completamente cambiato. L'ha accelerata, obiettivamente ha accelerato. Sì, la crisi c'era già, cioè, no? Ma poi lui ha detto il re nudo, sostanzialmente. Beh, esatto. L'ha detto, tutti ne parlavano sotto traccia, lui ha esplicitato. E quindi questo è un aspetto. Poi l'altro aspetto, secondo me, da tenere d'occhio in questi giorni, ieri lo abbiamo accennato, è la Francia. La Francia, secondo me, è una polveriera che sta per esplodere, cioè le cose che stanno succedendo nel mondo politico francese danno un'idea di precarietà dei dati finora usciti molto forte. Però restiamo a questo scontro, sì, America-Germania, che se allarghiamo troppo poi... No, però sai... Cioè, è un elemento, è del una quadro, bomba dietro naturalmente. L'altra. Certo, ecco, Pietrangelo, perché la Germania nella storia resta sempre croce delizia d'Europa, siamo sempre lì, sempre lì. Perché la Germania, a differenza delle altre realtà statuali, delle altre nazioni, ha un'unità di fatto inscindibile che la attraversa nella sua storia, l'unità di fatto tra l'identità umanistica e quella tecnica. Mm-hmm. Prova a spiegarmi. Certo. Il GLH Mercedes, per esempio, nella sua verticalità ripete il profilo di una cattedrale gotica. È inscindibile dall'immaginario l'idea, per esempio, di von Karajan, grande direttore d'orchestra, dalla scena in cui lui guida l'SL e ha questa immagine perfetta della tecnica che si accompagna quindi alla musica. La stessa la Germania, così come la Russia, sono le due uniche nazioni che potrebbero veramente fare l'Europa. Una, perché ha questa capacità di contenere la dolcezza mediterranea, malgrado tutto solo la Germania ha questa vocazione. L'altra invece è quella che tiene il collegamento con le distese asiatiche. Questo vedremo. E questo paradosso porta inevitabilmente a non capirsi con gli altri, a non capire per esempio la Francia. Si capiscono fra di loro. Certo, infatti, si capiscono tra di loro e non si vedrà che prima o dopo si capiranno bene. Ecco, Veronica De Romanis, economista, buongiorno, docente di economia politica alla LUIS Guido Carli di Roma. Trump dice, l'abbiamo sentito, che l'euro non è altro che un marco mascherato, lo dicevano in tanti prima, ma il fatto che adesso lo dica Trump, cosa cambia secondo lei? Beh, intanto Trump, insomma, il suo consigliere si confonde, perché quando dice il marco mascherato, il marco era debole e invece l'euro è forte. Io penso che sì, è importante che lo dica lui, perché quello che sta facendo è quello di cominciare una sorta di guerra valutaria, perché lui sa che ha promesso molto e forse non riesce a mantenere tutte le sue promesse. No. E quindi sposta l'attenzione sulle valute. La cancelliera però è nel mirino di Trump, per questa ragione secondo lei? Perché è un diversivo per Trump? Cancelliera in questo momento in Europa è il leader più credibile, quella che ha detto all'indomani delle elezioni di Trump che bisogna difendere i valori europei, e quindi Trump semplicemente vuole indebolire e dividere l'Europa e comincia da lei. Però secondo me nel mirino, più che la cancelliera, ci sono i paesi più deboli, perché con un euro più forte, che è quello che vorrebbe Trump per poter poi esportare di più in Europa, chi ci perde non è certo la Germania, ma ci sono paesi come noi, come l'Italia. Ecco, però diceva, ha sentito prima il professore, che diceva questo, se questo grande surplus commerciale della Germania, dalla quale ha avuto molti benefici, cominciasse a essere un pochino speso, forse qualcosa si potrebbe riequilibrare, o no? Dunque, il motivo per cui c'è questo surplus è perché la Germania negli anni ha fatto le riforme, ha innovato. D'accordo. In tecnologia e ricerca, per cui i suoi prodotti sono competitivi più sulla qualità che sul prezzo, quindi l'effetto tasso di cambio è minoritario rispetto alla qualità dei prodotti. Sicuramente la Germania sta facendo un passo in avanti in quanto incremento della domanda interna. Se andiamo a guardare la composizione, per esempio, del terzo trimestre, che il tendenziale è 1.7, beh, è trainato dalla domanda interna, quindi senta, c'è un'inversione, è chiaro, cioè, che lei non dice è immediata. C'è un'inversione, insomma, lenta, ma in questo modo però sembra che la Merkel abbia in testa più un'Europa germanizzata, non una Germania europea, oppure mi sbaglio? Ma no, i tedeschi non hanno nessuna voglia di avere un'Europa germanizzata. Sicuro? Sì. Ma sì, questo l'hanno sempre detto, è uno dei motivi per cui vogliono rimanere in Europa e chiedono un'Europa più forte. Senta, comunque nessuno fa rispettare il tetto sul surplus commerciale. Pronto, mi sente? Sì, certo, ecco. E con l'Italia invece c'è una grande severità. Perché? Perché il debito pubblico è troppo grande? Beh, qui bisogna distinguere due cose. I conti, il disavanzo e il debito sono delle regole che vanno rispettate. Il surplus commerciale non è una regola e qui bisogna certo chiarire, che perché no. Forse... Si ha l'impressione che molti politici che dichiarano questo, anche ieri Renzi sul blog, o non ha letto i trattati o li ha letti e non li ha capiti. Qui si tratta di una procedura sugli equilibri macroeconomici dove ci sono 14 indicatori, tra cui il surplus commerciale. La Germania non ne rispetta 2, ma l'Italia non ne rispetta 6, la Francia non ne rispetta 5. Quindi se noi continuiamo, come sta facendo l'ex premier Renzi, di chiedere una sanzione per la Germania, il primo paese che verrebbe sanzionato per noi ne l'Italia. Danno 3. Senta, lei che è una dei grandi teorici del rigore come motore dello sviluppo, è sempre convinta di avere ragione? I dati lo confermano, i paesi che nell'ultimo quinquennio hanno messo i conti in ordine, hanno tagliato la spesa, ad esempio la Spagna che ha fatto una riduzione di 4 punti percentuali, oggi cresce. Noi questo non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto una politica fiscale espansiva e non cresciamo. Tra l'altro la nostra ricetta della flessibilità, abbiamo chiesto quasi 19 miliardi, non ci ha portato molto lontano, perché di nuovo se guardiamo i dati la nostra produttività è negativa. L'altro ieri sono usciti i dati sulla disoccupazione, siamo l'unico paese all'interno della area dell'euro dove la disoccupazione aumenta e soprattutto aumenta la disoccupazione giovanile. Per ritornare alla Spagna, in Spagna la disoccupazione giovanile in un solo mese scende di 2 punti percentuali, da noi aumenta. Perché come diceva Savona, sostanzialmente la politica è stata sbagliata. La politica dove? Dei paesi o della BCE? No, la politica dei paesi. Beh, la politica dei paesi, ci sono dei paesi come la Spagna che hanno fatto una politica e delle riforme molto serie, flessibilizzazione del mercato del lavoro, della pubblica amministrazione. Il nostro governo negli ultimi 3 anni ha cominciato sicuramente. Cioè, diciamo che la nostra legge di bilancio ha risentito del fatto di essere una legge elettorale, questo è il punto. Beh, hanno prevalso bonus soprattutto strumenti temporanei. Non investimenti strategici. Non beh, investimenti, guardi, penso alla decontribuzione. La decontribuzione l'abbiamo visto, è stata una droga che per un po' ha fatto un po' di cosmesi sul mercato del lavoro, ma non sta funzionando. Però non è gratis, questo bisogna ricordare. Certo, si pagano questi posti di lavoro, certo. Forse questi 15 miliardi se li mettevamo a una riduzione strutturale, ovvero certo, permanente, non temporanea, sul cuneo fiscale, oggi avremmo avuto degli effetti dello sviluppo. Senta, il presidente della Bundesbank, Vindman, ha criticato molto la politica di Draghi. Abbiamo sentito che anche Savona dice Draghi ormai è sotto pressione tedesca. Ma cosa teme la Germania? Beh, la Germania non ama questa politica dei tassi bassi per due motivi. Primo perché, come diceva Savona, in Germania l'inflazione è più alta, quindi loro si dicono ma perché dobbiamo assolutamente aumentare l'inflazione, noi non abbiamo questo problema. E poi per un paese risparmiatore come la Germania tassi bassi ovviamente sono un problema, perché si guadagna di meno. Io penso che Draghi sia preoccupato anche perché lui si rende conto che questa politica dei tassi bassi ha tolto l'incentivo a paesi come l'Italia a fare le riforme. Ecco, perché guardi, le do un numero, la riduzione del disavanzo che noi abbiamo avuto negli ultimi anni è stata dovuta unicamente alla riduzione della spesa per interessi. Senta, comunque a Washington dicono che il trattato di libero scambio tra Stati Uniti e Europa è fallito perché Berlino voleva difendere il proprio surplus commerciale, è così o no? Beh, ieri, l'altro ieri, nella dichiarazione che ha fatto appunto quello di cui parlava lei, Navarro, il consulente di Trump, lui stesso diceva l'abbiamo fatto saltare noi il TTIP, quindi capito la responsabilità. Comunque in Germania, sembra quasi che Trump difenda l'Europa dalla Germania in questo momento. Ma no, veramente Trump vuole semplicemente dividere l'Europa per, invece di sedersi a un tavolo con un blocco forte come la Cina, con un blocco forte come l'Europa, vuole dividere l'Europa, ma a noi veramente non ci conviene, non dobbiamo cascare in questo tranello, perché quando ci sediamo al tavolo noi e Trump, non c'è storia, non ci sono dei dubbi su chi vince. No, infatti. Senta, ma Draghi, abbiamo detto anche prima, comincia a avere seri dubbi lui sulla tenuta dell'euro. Qual è la verità? Cioè, insomma, Draghi prepara il terreno per affrontare un cataclisma politico-finanziario prossimo? Lei lo vede? Beh, no. guardi, Draghi quando ha parlato, lo diceva anche prima il professor Savona, quando ha parlato dei costi dell'uscita dell'euro, stava semplicemente rispondendo a una domanda, sì, faceva dei numeri in base a questo meccanismo del target 2. Sì. L'euro, come diceva il presidente Ciampi, non è il paradiso, non è che una volta entrati nell'euro si entra nel paese dei balocchi, bisogna poi fare la nostra parte, fare politica, le riforme. Ma secondo lei l'euro resisterà oppure no? Guardi, è da anni che si dice ce lo chiediamo, che l'euro, però stiamo a vedere, diciamo, stiamo a vedere. È una polemica molto italiana, a parte vabbè, la Marine Le Pen, siamo in Italia, in Europa non si parla di uscire dall'euro, e paesi che ci sono andati molto vicino come la Grecia si ricordano ancora cosa significa far la fila al banco, ma certo, quando non puoi prendere la tua pensione, quindi non penso che nessuno voglia uscire dall'euro. Senta, se viene spiegato veramente gli svantaggi di una possibile uscita. Certo. Senta, la Merkel naturalmente a cacciare il quarto mandato da cancelliere, su cosa punterà secondo lei la sua campagna elettorale, rapidamente perché siamo in chiusura? Beh, su due punti, immigrazione e Europa, tutte e due da fare insieme ovviamente. Senta, ma è più vicina o più lontana dalla Russia di Putin, la Merkel, prendendo spunto da quello che diceva Pietrangelo? Beh, la Merkel insomma, ha ripetuto esattamente quello che ha detto il premier tedesco May, ci si riavvicinerà quando ci sarà un rispetto agli accordi di Minsk, questo è il vero punto. Grazie professoressa De Romanis, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Insomma, Mario, Stati Uniti hanno vissuto con Obama l'espansione, per la borsa è stata eccezionale. Pensi che arriverà un rallentamento, questo riavvicinamento tra l'economia finanziaria e l'economia reale, ci sarà o non ci sarà? Domanda dei 100 milioni di dollari. Tutti pensano che possa continuare. La Banca del Giappone pensa, per esempio, che ci sarà un periodo di espansione con Trump. Però dobbiamo incrociarla con già un lungo periodo di espansione della borsa che è stato sotto Obama, e i lunghi periodi di solito normalmente finiscono dopo un po', quindi in realtà Trump, che si sta muovendo, ha colto l'attimo di conversione della situazione. Sì. Allora la sua vera sfida è evitare la prossima recessione, questo è il punto. Ecco, prima ma allora, poi arriverà. Allora, come diceva la professoressa De Romanis, Pietrangelo, l'Europa comincia adesso oppure Trump la ucciderà o la rianimerà? Come andrà? Perché diciamo, da un certo punto di vista, se si accetta la sfida del dividend imperio siamo morti. Quindi potrebbe essere un'opportunità invece per trovare una ragione di unità. L'Europa oggi, libri alla mano, libri di storia alla mano, è ciò che l'Inghilterra fu per gli Stati Uniti all'indomani della guerra civile. Cioè quel rapporto di filiazione con la madre patria originaria, adesso si ripete con l'Europa, ed è un argomento che nella percezione di Trump è diventato più un fastidio che una questione da risolvere. Perfino Kissinger, che è l'unico che potrebbe aiutarlo in questa fase, si sente ormai sempre più distante da quello che dovrebbe essere il cosiddetto grumo europeo. È un bagaglio troppo complicato per accelerare i tempi secondo la sua agenda. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Adesso vi raccontiamo la storia di Leonardo Cenci, che proprio oggi sarà insignito al presidente Mattarella del riconoscimento del Cavaliere dell'Ordine del Merito. Questa è la motivazione per la determinazione e la forza d'animo con cui affronta la sua gravissima malattia, offrendo agli altri malati un esempio di reazione e di difesa della vita. Leonardo aveva una vita normalissima, era un agente di commercio, una fidanzata, tanti amici, finché 4 anni fa ha scoperto di avere un tumore al cervello e al polmone. Eppure oggi, a 44 anni, ha realizzato il sogno di una vita, la maratona di New York. Com'è andata, Leonardo? Caro Giovanni, in una maniera, era per me una grossa vincita, era quella stessa maratona che stavo preparando nel 2012, che poi la malattia me l'ha impedito, e quindi avevo una voglia di calpestare una veramente ogni metro dei 42 km 195. E li hai fatti tutti? Li ho fatti tutti, ma bravissimo. Non solo, ho anche migliorato il record mondiale che apparteneva all'unico malato di cancro che prima di me ha corso questa maratona, che era il cofondatore della New York Marathon, che ci impiegò 5 ore 32 minuti e 34 secondi, e invece il mio tempo al di sopra di ogni mia aspettativa, con il fatto che grazie al presidente del CONI Giovanni Malagò mi ha messo a disposizione un allenatore veramente top. Ho concluso la mia maratona in 4 ore 27 e 57 secondi. Bravissimo. Lasciando dietro oltre 30.000 persone sane. Senti, ma i medici 4 anni fa che cosa ti hanno detto? La prima diagnosi è stata rimessa ai miei genitori, quindi a mamma e papà gli avevano dato questa prospettiva di vita mia che era di pochi mesi, quindi sì. Almeno nella forma che ho io, tumorale, l'adenocarcinoma al polmone, ecco, con metastasi, fa emerso al quarto stadio, tutto è una delle diagnosi più feroci della patologia oncologica. E tu come hai reagito? E io ho reagito subito da mentalità sportiva, da maratoneta, cioè ho cominciato a sfidarlo fin da subito, ho detto ok, perfetto, ce l'ho, adesso però io lo affronto. Leonardo, e le persone che ti erano vicine come l'hanno presa? Mi sono rimaste vicine assolutamente, siamo rimasti in ottimi rapporti, però lì per lì io mi sono un pochino isolato come un elefante, perché mi facevano sentire con il loro troppo affetto una persona ancora più malata di quello che io già sapevo di essere. Tu che cure stai facendo? Io adesso sono sottoposto in un protocollo sperimentale, avendoci, ecco, questa patologia estremamente feroce e grave, che dopo i primi 8 cicli di chemioterapia e i 30 cicli di radioterapia al cervello per cercare di sedare e limitare le metastasi cerebrali, diciamo che sono entrato in un protocollo che assumo quotidianamente dei farmaci molecolari chiamati, in cui, ecco, vanno a cercare di inibire la progressione delle cellule cancerogene. Ma e tu come ti senti? Allora, se io mi sento, ecco, da sportivo, ovviamente ho molti effetti collaterali che sono l'astenia, la pesantezza muscolare. Ecco, ma il tuo stile di vita quindi è cambiato completamente? Beh sì, ovviamente il cancro. Ma voglio dire, gli allenamenti, fai le maratone. Comunque gli effetti collaterali io ce n'ho tanti e li sento, ma vado oltre. Cioè non mi fermo al dolore, io ok, lo affronto con stanchezza e io corro lo stesso, per quanto posso. Certo. Questo è anche una mia indole proprio di naturale. Di adesso hai fondato una onlus che si chiama Avanti Tutta, da dove venga il nome si capisce, diciamo. Il tuo carattere, insomma. Sono state le prime due parole, Giovanni, che io ho detto quando praticamente dopo una terza broncoscopia per prelevare del tessuto tumorale al polmone, io ho avuto un deficit, diciamo, sono andato quasi in uno stato di coma vigile e di conseguenza dopo un giorno e mezzo che mi sono ripreso ho aperto gli occhi, avevo sopra di me mamma e papà con veramente appena aperto gli occhi c'erano gli occhi del terrore addosso. E io gli ho proferito queste due parole, avanti tutta. Sì, e da lì ho deciso che quando un giorno avessi avuto la possibilità di stare meglio mi sarei dedicato ai malati oncologici, perché ho visto veramente... La sai tutta. Il reparto hanno bisogno veramente di sostegno, di aiuto, di conforto, di ascolto. Ma senti, tu appunto dicevi prima di Malagò, cosa ti ha organizzato Malagò? Beh, Giovanni Malagò mi ha confezionato praticamente un po' tutto, perché mi ha dato a disposizione il CONI per fare pre-maratona nelle visite, diciamo, quelli che fanno proprio gli atleti della nazionale italiana. Di conseguenza mi ha monitorato con un'equipe medica che mi ha svuotato come un calzino, vendo, perché effettivamente, sai, la maratona è una gara che si sottopone a uno stress ossidativo molto importante. Certo. Quindi ecco, io sapevo di riuscire a farcela, sapevo di essere in una discreta forma di salute, però di fatto avevi bisogno di essere sostenuto. Ecco. Esatto. E poi, senti, ma adesso un'ultima cosa, dopo New York qual è il tuo prossimo appuntamento sportivo? È la mezza questa maratona di Terni, che poi è una maratona, ma io farò la distanza di 21 km, la correrò insieme al questore qui di Perugia, Francesco Messina. Beh. Poi il 2 di aprile sarò a Roma, che farò... Quella di Roma. Esatto. Anche una storia di coraggio, di determinazione, quella di Leonardo Cenci, che sarà anche al Parlamento europeo per presentare il progetto Oncology Games, che con il sostegno del CONI ha l'obiettivo di promuovere lo sport anche nella malattia. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Pietrangelo, cosa ci fai ascoltare oggi? Arriva. People say the meanest things. Yeah, I've been called a dick, I've been called so many things. I know I've done some shit that I admit deserves it, but that don't mean it doesn't sting. Saw you standing outside a bar. Would have said you're beautiful, but I used that line before. Now I have my share of shallow nights, 'cause I was scared. E allora le solitudini, tutte le solitudini stamattina si sono sparpagliate per strada. Non però le anime, ma i supporti, i totem, i feticci, cioè i barattoli di Nutella, i telecomandi, le felpe, i play dei videogame. Si è formato come un oceano tutto pieno di cosi, dove a navigare splendente, ancorché solitaria, una vela con a bordo nessuno in cerca di qualcuno. Ha chiamato Calypso, ha chiesto questo brano per Ulisse con un messaggio: andiamo a teatro stasera? Andiamo a teatro stasera. Cioè, tu capisci che per invitare una il casino che fa, diciamoci la verità. Tu dove cioè, vai invece? A teatro, sì. A teatro con lui per vedere chi c'è. Calypso, sì. Stand up straight at the foot of your love. Lift my shirt up. No, stamattina, cioè, io non posso lasciarvi la Eh no, però non puoi fare sempre la stessa scena, Mario, Giovanni, cioè, no. Giovanni, ma sentila, no, ti sei ritirato, senti sta roba. Dai, forza, vai, siamo in ritardo, andiamo avanti. Tremendo. No, invece non è male. Boh, vabbè, The National, Bloodbath Ohio. E senti Giovanni, no, solo per segnalare che la difesa del free speech e della libertà e della democrazia da parte delle masse in progress, cioè dei democratici americani, procede speditamente. Ieri bene abbiamo fatto a fare la puntata sulla strisciante, direi molto sollevata in realtà, guerra civile americana. Ieri a Berkeley, dove se no poteva scoppiare questo. Questo è stato impedito al direttore di Breitbart News, che è uno degli organi della propaganda di Trump, da lì viene infatti Steve Bannon, bene, gli è stato impedito di parlare in un dibattito a cui era stato invitato dall'università stessa. Ci sono stati incidenti, manifestazioni, incendi. Tutto procede meravigliosamente bene. Cioè, i democratici apprezzano la democrazia quando vincono loro, non è male. Questa di Merkel è un segnale, è un altro segnale importante. Salamino! Alla Cozzaglia, altro che patto del Nazareno. Matteo Renzi torna in campo e sbaraglia gli avversari, però quelli interni. Chiede il voto subito e trova accanto a sé, come amici, più di ogni altro amico, i suoi nemici: Grillo, Salvini e Meloni. Avanti al vivo, le chiamere. Per gli amici non c'è scampo quando Renzi torna in campo. Lui chiede il voto subito, ma anche Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, già pezzo pregiato della sua argenteria, dice no. Renzi ha fretta di andare alle urne e Pierluigi Bersani è già pronto a rifargli l'ulivo sotto il muso. Il rottamatore brama di fare al più presto la sua campagna elettorale. Giorgio Napolitano dice no, si va a scadenza naturale. Gli sono nemici gli amici a Renzi, eppure Sergio Mattarella attuale capo dello Stato, eletto al Quirinale a dispetto del patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, pure Mattarella fa sapere di avere chiamato Napolitano, di avergli detto bravo, di avere quindi solidarizzato col predecessore, randellato giusto ieri... Capitano, lo posso dotturare? Randellato dunque dall'altro Matteo, il Salvini, poi da Giorgia Meloni, la Fratella d'Italia, e dal Movimento 5 Stelle, ovvero i nemici di Renzi rivelatisi più amici degli amici, la onde, per cui il nuovo grido di battaglia è all'accozzaglia, all'accozzaglia! Mai dire mai in politica, mai dire mai! Gli avversari di ieri sono gli alleati di oggi. L'unità di intenti li mette insieme. Una mano lava l'altra, un occhio vede meglio che due, e così, tomo tomo, cacchio cacchio, il congresso, quelli che il PD gli vuol far fare a Renzi, può evitarlo come, caro Giovanni, partecipando alle primarie del centrodestra. Vincerle e così risolvere il problema dei problemi dell'accozzaglia, e cioè trovare qualcuno da mandare avanti per intrattenere lo spettacolo pubblico fino a scadenza naturale del governo, va da sé, del conte Paolo Gentiloni Silveri. C'è ancora una bolla, Mario? Sì. Oh, questa è bella, dai. Oh. Allora, questo è Lenny Kravitz, va bene? Stand, giusto ancora un po'. Don't give up, you're gonna see tomorrow. Bravi. No, volevo dire, Giovanni, che l'entusiasmo con cui vengono scritti e descritti i risultati di Facebook sui giornali, beh, insomma, è abbastanza surreale. Li diamo per dovere di cronaca, ovviamente. Ha fatto il record di ricavi nel trimestre, 8.8 miliardi di dollari, derivanti all'84% dalla pubblicità su piattaforme mobili, e quindi tripudio, bravi, clap clap. C'è solo un piccolo particolare: che siamo di fronte a un pericolosissimo, secondo me, oligopolio sul mercato delle risorse pubblicitarie, che sta distruggendo letteralmente il mercato dell'informazione. C'è sempre un po' stato quell'oligopolio. Però adesso è proprio il drenaggio assoluto. Sai la draga che passa sotto e si porta via tutto. Ecco. E poi sta compromettendo, a mio avviso, il livello del dibattito politico e civile nelle democrazie avanzate, chiamiamola così, e non solo. Però è chiara la deriva: Zuckerberg si candiderà alle elezioni presidenziali. Ormai l'abbiamo detto già più volte. Del 2020 e il popolo. E concorrerà con tutta la sua capacità, sì, di condizionare, certo, certo, gli elettori profilati. E i colti a prescindere, finalmente gli intelligenti comunque potranno applaudire finalmente e avere il loro contrappasso. Cioè applaudire il totalitarismo orwelliano contro il quale si sarebbero battuti. Canzoniere. Quando che nonna fatto mia pigliò marito, non fece mica come tante e tante che dopo un po' se trovano l'amante. Lei in 50 anni non l'ha mai tradito. 800 24 00 24 per gli sms, 349 238 6666. Ma già, velocità della luce, Rita da Roma. Buongiorno Rita. Buongiorno. Buongiorno, allora? Sono di Roma, quindi ancora ci si mozzica le mani, mia nonna. È l'onestà di mia nonna, detta da Vittorio Gasma. Ma chi è l'autore? È Trilussa. Giusto. Beh, brava, bravissima. Bene, grazie. Grazie a lei, a voi, vi sento sempre, tutte le mattine. Grazie, ci fa piacere. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Mix 24. Quello che abbiamo passato in questi ultimi giorni è indescrivibile. Ma il peggio deve ancora venire. Una miseria indicibile, morte, distruzione. Le famiglie della maggior parte dei caduti non sono state nemmeno informate. Quindi, se non ricevete nessuna notizia, molto probabilmente significa che sono stato ferito, fatto prigioniero, o che sono morto per la fame o per il freddo. Mi dispiace se questa è diventata una lettera d'addio. Non so quanti giorni ci restino ancora. Il 2 febbraio del 1943, i soldati della Wehrmacht, dopo 22 giorni di combattimento, si arrendono all'Armata Rossa. È la battaglia di Stalingrado, la prima sconfitta politico-militare del Terzo Reich, uno scontro che cambierà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Dopo una lunga e massacrante battaglia che dall'estate del 42 fino all'inverno del 43 vede contrapposti tedeschi e loro alleati da un lato e soldati dell'Armata Rossa dall'altro, le truppe del generale von Paulus vengono annientate. Ma a fare più morti di tutti sono fame, sete, malattie e soprattutto il freddo, che lascia sul campo migliaia di soldati. Dopo il giornale radio, dunque, per i gialli della storia, Stalingrado, la più grande battaglia della storia. 200 giorni di combattimento fino allo scontro finale. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, ottobre 2016. Il trattamento nel tempo con ossigeno in bronchiti croniche con desaturazione moderata. Vi sarà capitato di vedere anche per strada o in ambienti pubblici persone che si portano dietro la bomboletta dell'ossigeno perché hanno bisogno di essere trattati continuativamente con l'ossigeno. Sono i bronchitici cronici, c'è una malattia specifica, bronchite cronica ostruttiva, che hanno un debito di ossigeno e quindi deve essere continuamente compensato perché, come si dice, saturano poco. Allora, una saturazione sotto l'88% di quello previsto, la saturazione normale viaggia tra il 95 e il 100% della saturazione, una saturazione sotto l'88% si sa per certo che ha bisogno di una terapia cronica con questo ossigeno e quindi sono le persone che vedete per strada con la bomboletta appresso. Ma non si sa bene se una saturazione non buonissima ma nemmeno pessima, cioè una saturazione tra l'89 e il 93%, necessita di un trattamento così fastidioso, perché portarsi dietro la bomboletta d'ossigeno certo non è un piacere, un trattamento così fastidioso nel tempo. Allora sono stati studiati quasi 800 pazienti con questa bronchite cronica e una saturazione intermedia, appunto, tra l'89 e il 93%, e sono stati randomizzati per avere terapia con l'ossigeno cronica oppure no. Dopo 18 mesi non c'è differenza in termini di mortalità, ospedalizzazione, qualità della vita, funzione polmonare e capacità di fare in 6 minuti un adeguato percorso, un adeguato metraggio. Quindi, a dire che sotto l'88%, cioè una malattia, una bronchite cronica ostruttiva severa, la terapia è necessitata, quando invece è una malattia media, possiamo cavarcela senza l'ossigeno cronico. Allora, Mario, prima della canzone di Gloria c'è ancora una notizia, un aggiornamento? Sì, un flash, un numero rosso, 1.9 miliardi di euro di perdita, è la perdita di Deutsche Bank, quasi interamente dovuta alle cause sparse in America dopo la crisi dei mutui subprime. Va bene, e intanto per chiudere oggi, Gloria Guerrera, cosa ci fa sentire? Oggi una canzone a chi bellissima era Lili e oggi preferisce essere Gigi. Domenico Modugno, Musetto. La più bella sei tu, il tuo nome Lili, spettinata così, tu mi piaci di più. Oh no, cara, resta sempre così, mia. Non tagliarti i capelli, non truccarti di più. Amore, ma tu, dolce, hai deciso così, mia. di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi. Vivi così tra boutique e caffè, mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché, oh no, cara, resta sempre così mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così, buonanotte Lili. Caffè, mangi roast beef, bevi solo frappè. Ma perché, oh no, cara, resta sempre così mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili.